immaginate che succede domani, io che cazzo ne so. In paranoia per ogni sorriso falso che do. Tre anni dopo ancora mi sbatto al cazzo il bontone. Indeciso se andare a letto o fare il bagno col phone. Tu non sai come fare, fuori dalle pazze monetarie. Scrivo strofe varie da un altro pianeta come alien. Tu vuoi solo commentare, giri mani sotto come con le cale. Flow, premio Nobel, tu sei collegiale. Prendilo, io c'ho 20 flow. Lo dico in inglese, I got 20 flow, maybe 20 flow. Scherzo dai, tutto fatto canto pezzo il rai. Con la faccia bianca come il senso dai. Lo vuoi più forte di così? Su cassa rullante ti tolgo la para come il Rivotril. Rimo sì, ogni barra ti lascia un echimo sì. Si fumassero le macchine, ci avrei la limousine. Sensazionale, quando rap è passionale. Amo questa merda, non è mai un rapporto occasionale. Vado ad azionare il meccanismo del tuo collo per poi farlo andare avanti e indietro sulla strumentale. Spegniti, come i lampioni a stazione Termini. Vuoi numeri, miei cazzo ne prendili. Ti si spezzano i tendini. Tu riprendimi, che taglio e traguardo tuoi identici. Barra tappe da un afghano, ci prendo la mano. Fossi un cane, sarei di certo un alano. Sono i quattro assi con quell'altro che passa la mano. Sono in Moncler che cassa dal camion. Il miracolo, strillo fino a quando sono afano. Sulla voce l'effetto megafono. Ribalto il tavolo, più caldo del diavolo. Una chiusa colpa nell'abitacolo. Jamie Tights, Jamie Tights. Se parli male di me domani prendi likes. Lo faccio per me stesso e non per i likes. E ogni disco che esce è very nice. Vuoi dire di no? Me ne sbatto il cazzo ma giù ne scargo. Colleghi francese mi accarezzo bro. Mo sì che sto bene e sto senza pretese. Con 11-12 palti al mese. Con rap tiro le punizioni a fetto. E va sempre sotto al 7, perfetto. Che t'avevo detto? Tra, so ghetto. Rap ancora in studio con Flavietto. Ciao.